Boulevard. Pensieri, conversazioni su libri, incontri, dibattiti. Scontri di piazza è un tuffo nell'Italia degli anni 90, vista dagli occhi degli auto-organizzati. Sono racconti che non ci girano troppo attorno. In manifestazione ci si va anche per scontrarsi con le forze dell'ordine. Marco Capoccetti, che questa storia l'ha attraversata, compone un puzzle senza peli sulla lingua. Sono 11 racconti con un inizio, una fine, uno svolgimento centrale. Poi in realtà ovviamente sono dei racconti con un ordine cronologico molto preciso, perché vanno dal gennaio del 1991 a luglio del 2001 e affrontano questo periodo in ordine cronologico, quasi come fossero un romanzo di formazione di un militante autonomo, di una generazione di militanti degli anni 90, raccontando una serie di episodi legati a scontri di piazza, manifestazioni, occupazioni di case e centri sociali. Gennaio 91, luglio 2001, praticamente stiamo parlando dell'invasione del Kuwait e poi della Diaz, insomma, più o meno, no? Se vogliamo fare una periodizzazione. Gli anni 90 sono degli anni particolari per l'auto-organizzazione e nello specifico, perché qui c'è uno specifico molto romano, tu racconti un'intera generazione. Dacci qualche pillola. Gennaio 91 è ovviamente un momento importante dal punto di vista storico-politico, perché l'Italia per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale partecipa attivamente a una guerra, è la guerra voluta dagli Stati Uniti contro l'Iraq, la prima guerra del Golfo, per cui c'è un momento di, come dire, tensione da tanti punti di vista politico, istituzionale, sociale e culturale nel paese, a cui purtroppo saremo abituati per tutti gli anni 90 e i primi anni 2000 con le altre guerre che sono accadute. Allora però nel gennaio del 91 la decisione di partecipare a questa guerra fu molto sentita nel paese, ci furono manifestazioni, scioperi, occupazioni di scuole, di università. Fu un momento importante gli anni 90, questi racconti, come dicevi tu, parlano soprattutto di ciò che è accaduto a Roma, dando dei cenni però a quello che è accaduto anche in altre città, perché ci fu un cambiamento totale dell'auto-organizzazione, del mondo dell'autogestione e di quel che restava della vecchia autonomia operaia, poiché se gli anni 80 hanno visto sopravvivere molte delle organizzazioni nate negli anni 70, istituzionali come Democrazia Proletaria, che raccoglieva le varie organizzazioni, Lotta Continua, il PDUP, Avanguardia Operaia, cresciute negli anni 70, o non istituzionali, appunto come l'autonomia operaia, che per tutti gli anni 80 rimane in piedi nella città di Roma, a Padova, a Milano, la stessa Bologna. Negli anni 90 c'è un trasformarsi, un radicale, insomma, nella sinistra istituzionale, si scioglie il Partito Comunista, nasce il PDS, Rifondazione, e nella stessa autonomia si sciolgono i vecchi comitati autonomi, molti centri sociali iniziano la strada del dialogo con le istituzioni, alcuni candidano propri militanti all'interno delle file della neonata Rifondazione Comunista o dei Verdi, portando a delle spaccature verticali oppure orizzontali all'interno del frastagliato e frammentato mondo dell'auto-organizzazione sociale, dell'autogestione. E poi ci sono quelli che danno il titolo al libro, gli scontri di piazza. Quali giornate racconti, insomma, perché poi ci sono alcune manifestazioni, alcune situazioni che si fissano tanto anche nell'immaginario collettivo. Racconto a partire dai primi scontri di piazza, appunto, contro la guerra nel Golfo. Nel sabato del 12 gennaio del 91 ci fu una consueta manifestazione per la pace, cui parteciparono 200.000 persone all'incirca, in cui c'era un po' di tutto, insomma, dalla sinistra istituzionale all'associazionismo laico e cattolico fino ai centri sociali e all'autonomia operaia a livello nazionale. Ci furono dei duri scontri con la polizia per contestare la scelta del governo e del Parlamento di partecipare a una guerra che scoppierà esattamente 4 giorni dopo quella manifestazione. Ci furono degli scontri fuori imperiali fino agli scontri di Piazza San Giovanni, che durarono un'ora, un'ora e mezza, e furono all'epoca ovviamente riportati a tutti i giornali, le televisioni, le radio. Non c'era internet, per cui le immagini e la diffusione era minore, insomma, però ne fu dato un gran risalto, e il libro si apre con il racconto di quella manifestazione, dei giorni che la precedono e di come si organizzano quegli scontri. Racconto altri episodi di scontri, un corteo di Giorgiana Masi sempre nel maggio del 91 a Roma, oppure racconto un episodio di scontri coi fascisti sempre alla città di Roma nel quartiere di Monteverde, oppure racconto gli scontri alla facoltà di lettere e filosofia occupata della Sapienza nel dicembre del 96, quando fu sgomberata dalla polizia, che per la prima volta dagli anni 70 veniva autorizzata dall'allora rettore Tecce ad entrare nella città universitaria, fino ad arrivare agli scontri dei giorni di Genova. Ho deciso di raccontare questa, di dare un titolo così, se vuoi anche didascalico, insomma, netto, chiaro, perché ho voluto fare in modo che il protagonista, i protagonisti di questo libro raccontassero in prima persona un episodio che nelle manifestazioni ogni tanto capita, cioè la scelta di fare degli scontri con la polizia, con le forze dell'ordine per attaccare una sede istituzionale, un'ambasciata o un McDonald's, cose avvenute tantissime volte. Questa volta ho voluto raccontarli non dal punto di vista del manifestante che è contrario o del politico che si scandalizza, ma dal punto di vista di chi scende in piazza consapevole di voler fare degli scontri, di voler praticare la violenza, al punto che spesso li organizza, li determina, li decide prima. Non è una casualità, io lo descrivo bene in questi racconti, insomma, gli scontri vengono organizzati, pianificati, decisi prima da militanti politici, da attivisti, da persone, non da extraterrestri infiltrati nei cortei come spesso i giornali vanno a dipingere, insomma. Come si fa a raccontare un momento così? È ovvio che, immagino, tu ne sia stato anche testimone come militante attivista politico. Ne sono stato testimone e lo racconto in prima persona, ne sono stato anche protagonista, insomma, non ho problemi a dirlo dal punto di vista penale o di altri tipi. Sarebbe ipocrita dal mio punto di vista adesso dire io ho solo assistito, no. Nei racconti c'è la prima persona e di alcuni scontri di piazza sono stato protagonista, e ci tengo a raccontarlo in questo senso. Se parlo di uno di questi scontri che è stato fortemente dimenticato, nel luglio del 1998 si suicida l'anarchica argentina Maria Soledad, una militante no TAV, si suicida nella comunità dove era agli arresti domiciliari. Si fece una riunione qui a Roma e per decidere di andare a fare una manifestazione statica in quel di Campo dei Fiori. Si fece una manifestazione con una grande rabbia addosso, oltre che con un dolore, seppur non conoscevamo di persona questa militante anarchica no TAV, però un filo comune che ci legava ci fece sentire molto dolore per questa sua scelta di suicidarsi, per cui si scese in piazza determinati nel voler scontrarsi, semplicemente per manifestare la propria rabbia, e alla prima occasione ci fu uno scontro con le forze dell'ordine, con i carabinieri, che reagirono duramente sparando in aria con le pistole d'ordinanza e con la mitraglietta. Per fortuna non sparano contro nessuno dei manifestanti. È una generazione sconfitta questa. Assolutamente sì, sì, sì, sì, sì. Io ne faccio assolutamente parte. Quando ho iniziato a fare militanza politica era il 90, era il movimento della Pantera, che dopo tanti anni, dopo tantissimi anni, si rivedevano le piazze, le università, le scuole, anche un po' di posti di lavoro in mobilitazione, occupati, lotta. Dopodiché negli anni 90 le piazze hanno continuato a riempirsi, come i movimenti sanno fare a tempi alterni, però quell'idea di trasformazione sociale, rivoluzione, che era una parola che ancora si usava nei primissimi anni 90, è stata totalmente abbandonata e la generazione a cui appartiene il sottoscritto è stata totalmente sconfitta, a mio avviso, dal mio punto di vista, sia chiaro, perché c'è chi ha deciso di entrare nelle istituzioni, chi ha lasciato la militanza attiva per occuparsi di volontariato e associazionismo e chi, come il sottoscritto, continua, prova a resistere, a costruire tessuti di militanza autonoma antagonista, ma è stato indubbiamente sconfitto dalla storia recente. Scontri di piazza di Marco Capoccetti Boccia, Autonomi senza autonomia, Lo Russo Editore, 12 euro.